Deborah mi sta dicendo che l'ha fatto sabato senza saperlo. Ho dato una bella botta al mio colesterolo qualora fosse stato sulla, su valori bene. Non ho bisogno di peli. Anche pistacchi, vero? Anche pistacchi, tra l'altro. Io vado pazza per i pistacchi. Ecco. Devi andare a sentire in archivio la puntata sulla tosse. Ma non ho la tosse, solamente il raspiro della gola. Pietro, se passa da Milano la invitiamo a bere un caffè. Via, ci dica. Mi tocca via l'elicottero. Dai. Spengo cicche, tu accendi me. In confusione. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. I giovani di questi anni, Nicoletta, purtroppo. Purtroppo un esercito di senza lavoro, intanto. O comunque un esercito di precari, con poca speranza per quanto riguarda il proprio futuro professionale, di conseguenza anche per quello personale, che è evidentemente strettamente collegato. Un dato in continua crescita che non possiamo ignorare, che per questo periodicamente ce ne occupiamo qui a Cuore e Denari. Gli ultimi dati Istat, quelli di novembre, parlano di una disoccupazione giovanile al 43,9%. È una percentuale impressionante. È vero. Dobbiamo sempre pensare che la fascia d'età è quella fra i 15 e i 24 anni, quindi c'è certamente chi ancora studia, però molti di questi ragazzi appunto sono in realtà a spasso. Il numero è preoccupante. E a proposito degli studenti, in questi giorni in cui si può effettuare l'iscrizione alle scuole, quindi si sceglie anche il percorso degli studi superiori, una riflessione sulle scelte che vengono fatte a monte, sul progetto che un ragazzo deve fare sul proprio futuro lavorativo, non può passare in secondo piano. Noi parliamo di giovani e di lavoro oggi nella prima parte di Cuore e Denari, e vi chiediamo all'800 24 00 24 quali sono le difficoltà che notate, o come invece avete fatto a trovare lavoro. Qua è anche abbastanza probabile che stamattina a drizzare le antenne siano i genitori all'ascolto. Noi però ci rivolgiamo anche ai giovani, magari cercheremo di intercettarne qualcuno, e magari anche un po' tutto il nucleo familiare, nonni di giovani in cerca del posto di lavoro, e naturalmente a tutta la famiglia sta a cuore questa ricerca. Parleremo anche della garanzia giovani. Qualcuno l'ha definito brutalmente il grande flop degli ultimi mesi, ne parleremo tra poco. Invece per la pagina di Cuore cambiamo, Deborah, decisamente argomento, parliamo di pelle e di capelli. Anche loro risentono del passare degli anni, chi non è più giovane, chi ha superato gli anta lo sa bene, la pelle del viso si segna, i capelli diventano più sottili, si diradano, cambiano colore. Ci sono però delle attenzioni e delle cure che, pur non garantendo l'eterna giovinezza, possono aiutare a, come dire, rallentare il declino. Ma insomma, guardatevi allo specchio, chiamateci, se è vero che non è mai troppo tardi per imparare a prendersi cura di sé, non è mai troppo presto per iniziare a farlo. 800 24 00 24. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precarietà e disoccupazione, due ostacoli che i nostri giovani devono assolutamente trovare il modo di superare. Noi ne parliamo oggi nella prima parte di Cuore e Denari con Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Job Metis e presidente di Assosom, l'associazione di categoria delle agenzie per il lavoro, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto, dottor Rasizza. Buongiorno a voi. Eccoci qua. I vostri radioascoltatori. Pendiamo dalle sue labbra stamattina, perché soprattutto da una società come la sua ci aspettiamo indicazioni molto concrete da fornire questa mattina alle famiglie all'ascolto. Ne vogliamo parlare proprio anche con le stesse famiglie, chiaramente, quindi come al solito diamo il nostro numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vogliamo sapere le vostre storie, le storie di giovani alle prese con la ricerca del lavoro, quali sono le difficoltà che riscontrate, in quali ambiti si fa più fatica, quali quali aspetti sono i più critici. Adesso abbiamo anche con il Job Act una grande semplificazione dei contratti di lavoro, più o meno grandi, insomma questo è un aspetto che in qualche maniera ha favorito l'incontro fra domanda e offerta, soprattutto per quello che riguarda la platea dei giovani e i contratti che vi vengono proposti, le selezioni, la retribuzione, la formazione che permette di avere i requisiti giusti. Su che cosa puntate? Vogliamo raccogliere anche le buone storie, quelle di chi è riuscito a trovare la sua strada. Quindi condividete, se volete, con tutti gli altri la vostra testimonianza e dateci qualche suggerimento sugli strumenti su cui avete fatto leva per presentarvi anche in maniera adeguata nel mercato del lavoro. E quindi potete utilizzare anche gli altri canali per interagire con noi. Avete il numero per gli SMS 349-238-6666. Scriveteci anche se il social network naturalmente è il vostro canale preferito, su Facebook o su Twitter. Andrea ci scrive anche: chi ha superato i 40 ed è disoccupato deve affrontare la ricerca del lavoro, nessuno ne parla, noi Andrea ne abbiamo parlato, ma allora a questo punto, visto che caldeggiate questo argomento, Nicoletta, magari che dici? Assolutamente, direi che... Ecco, non avevo acceso, vedi? Il microfono è utile in radio, non so se lo sai. Direi che nelle prossime settimane possiamo proprio organizzare una puntata per over 40 e over, anche gli over 50, altre categorie. C'è un'altra società che sta portando avanti delle iniziative, ne parleremo più avanti. Però Rasizza, pensando a giovani e lavoro, facendo un punto all'inizio di un nuovo anno, non possiamo non iniziare la nostra chiacchierata commentando quella che sembrava essere e aveva tutte le carte in regola per esserlo la grande promessa dell'anno passato: garanzia giovani. Forse molti commentano adesso, ad 8 mesi dal lancio, una promessa non mantenuta. Allora vogliamo ricordare l'ABC di quella grande iniziativa che è partita da Bruxelles e che stanziava, per quello che riguardava lo Stato italiano, 1,5 miliardi di euro per iniziative proprio per favorire l'occupazione giovanile. Che fine ha fatto, dottor Rasizza? E poi naturalmente ci racconterà anche le agenzie che tipo di contributo hanno dato a far sì che questa iniziativa funzionasse, e invece poi sappiamo che appunto i risultati auspicati non sono stati propriamente raggiunti. Partiamo da che cos'era e da che cos'è. Ma Garanzia Giovani era ed è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Rimane un obiettivo molto ambizioso che prevedeva dei finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%. Come ricordava lei, il finanziamento per l'Italia è stato di 1,5 miliardi di euro e sicuramente possiamo definirlo, dopo 8 mesi dal lancio, ricordo che è partito a maggio. È partito a maggio, possiamo forse oggi dire che è stata un'occasione mancata. Purtroppo i dati che Via Veneto venerdì scorso ha pubblicato mostrano proprio lo scarso appeal di Garanzia Giovani. Mm-hmm. Pensate che solo il 22% dei potenziali beneficiari è stato raggiunto da questa nuova opportunità e da questa nuova possibilità. Un'opportunità che funzionava attraverso l'iscrizione al portale Garanzia Giovani, appunto dei giovani stessi interessati a questa iniziativa, fondamentalmente in IT, no? Ricordiamo anche la definizione di questo acronimo, dottor Rasizza, di questi ragazzi contemplati all'interno di questa sigla. Chi sono e appunto nello specifico Garanzia Giovani a chi si rivolgeva? Sì, Garanzia Giovani si rivolgeva proprio a queste persone, ovvero alle persone che non erano né inserite in un percorso scolastico né formativo e non lavoravano. Quindi era proprio ed è proprio rivolto a loro questo tipo di attività. Giovani al di sotto dei 30 anni, quindi dai 15 ai 29 anni era la fascia di età che doveva interessare Garanzia Giovani. Allora, tra l'altro, questi giovani dovevano appunto iscriversi a questo programma e avevano la garanzia, tra virgolette, di essere nel giro di poco tempo, di poche settimane, richiamati quantomeno per un primo colloquio esplorativo, non già di lavoro ma comunque orientativo da parte dei centri dell'impiego, no? Dottor Rasizza, dopodiché per tutti quelli che avevano le carte in regola e avevano anche, come dire, appunto proprio le carte per presentarsi e per rispondere alle offerte di lavoro, che sono purtroppo ancora pochi in questo periodo, avevano più o meno una garanzia di essere anche richiamati per essere impiegati da qualche parte e occupati. Lei ha un bilancio su quanti incroci sono stati fatti in questo senso, per quanti ragazzi, a prescindere dall'essere richiamati per il primo colloquio, poi sono stati effettivamente occupati? A quanti ragazzi è stata fatta un'offerta di lavoro? Guardi, i giovani che si sono registrati sono oltre 370.000 su 1,7 di net, quindi quelli disponibili a lavorare. Le offerte disponibili però sono state soltanto 40.000 e quindi di fatto potevamo e si poteva coprire soltanto l'11% degli iscritti al portale. Oggi c'è ancora molto da fare e credo che nel corso della trasmissione affronteremo magari qualche piccolo correttivo che sono sicuro il Ministero prenderà in esame nelle prossime settimane. Infatti si sta già parlando di una fase 2 di Garanzia Giovani, di una sorta di restyling a questo progetto. Le agenzie come Open Job, dottor Asizza, che ruolo hanno avuto in questi 8 mesi per fare in modo che questa iniziativa appunto funzionasse, oppure avete fatto dell'altro sostanzialmente, avete dato un appoggio esterno, non operativo? Che cosa avete fatto? Ma dunque, le agenzie come sempre hanno avuto e vogliono avere un ruolo pratico e pragmatico di tutte quelle che sono le opportunità per consentire a chi deve cercare un posto di lavoro di trovarlo nel più diciamo breve tempo possibile. Perché questo? Perché noi tutto sommato conosciamo quelle che sono concretamente le vere e reali esigenze dei nostri clienti. Non dimentichiamo che il ruolo dell'Agenzia per il Lavoro è quella tutti i giorni di contattare le aziende nel proprio territorio e chiedere quali sono le figure che in quel momento stanno cercando. Esatto. Ecco che magicamente chi cerca lavoro incrociando un'Agenzia per il Lavoro può trovare il cliente che in quel momento ha necessità di quella figura. E a questo punto inviamo presso l'azienda cliente questo lavoratore, anche magari per un periodo di transizione, con la speranza che dopo un periodo di tempo con noi l'azienda cliente assuma direttamente il lavoratore che noi abbiamo inviato in missione. Avevamo un ragazzo di Genova di 22 anni che voleva intervenire. L'abbiamo perso, ma lo recuperiamo. Lo recuperiamo perché ci interessa molto. È un profilo che non è proprio che sia scontato che telefoni a Radio 24, vero Nicoletta? Per cui ci interessa molto. Adesso la regia lo richiamano, lo richiamiamo e sentiremo un po' la sua storia. Esatto, io l'anticipo un po' perché in realtà si lega abbastanza strettamente a quello che stava dicendo poco fa Rosario Asizza, questo ragazzo appunto di Genova, però dalla sua viva voce sarà certamente migliore la versione dei fatti. Voleva raccontarci che le aziende chiedono dei profili estremamente specifici, dottor Asizza. Ci fa lei una Polaroid, ci scatta una fotografia sulle richieste aziendali? Quando un giovane lamenta una richiesta di competenze molto qualificate, molto specifiche, secondo lei che cosa intende appunto? Qual è la richiesta che fanno le aziende? È chiaro che ognuno avrà il suo profilo da chiedere per l'appunto, ma lei ci può fare un quadro generale della situazione, tanto per capire anche dove orientarli? Sì, in un mercato sempre più competitivo come quello che da in questi anni stiamo vivendo, le aziende richiedono figure sempre più specializzate. E questo è un po' quello che noi chiediamo e invitiamo i nostri ragazzi quando vengono in filiale a considerare insieme a noi. Oggi un'azienda chiede una persona immediatamente fruibile, una persona che possa immediatamente inserirsi nel contesto aziendale presso quale noi lo inviamo e rendersi immediatamente operativo. Non c'è più tempo per la formazione, non c'è più tempo per aspettare che la persona che venga inserita si adegui o impari un pochino le logiche dell'azienda. Giustamente gli imprenditori hanno bisogno di velocità e quindi la figura specializzata è quella che certo. Oggi è più richiesta. E questo è però motivo... è difficile che esatto. Un giovane sia specializzato. Esatto, no? Perché... ed è il motivo anche per cui i contratti di apprendistato non hanno certo. Funzionato granché, proprio perché l'azienda deve investire per mettere a disposizione del giovane che deve formarsi sul tutor e non c'è tempo in questo momento. L'abbiamo ripreso. È Andrea che ci chiama da Genova. Buongiorno Andrea. Andrea, bentornato. Buongiorno, grazie. Volevamo proprio sentire la sua storia, Andrea. Sì, allora, io nel luglio 2013 mi sono diplomato come geometra. Sì. E successivamente ho cercato uno studio appunto per affrontare quella che era la pratica professionale, per poi potermi abilitare in un certo momento. E, subito non sono riuscito a trovare disponibilità e pertanto mi sono organizzato per trovare un altro tipo di lavoro, anche perché oggigiorno penso che sia abbastanza comune sapere che tra le famiglie italiane ci sia un certo disagio a livello economico, comunque una difficoltà. Pertanto mi sono attrezzato, ho cercato qualcosa per poter aiutare i miei genitori. Successivamente nel ruolo che ho trovato come magazziniere alla Ecom, presso un punto vendita di alimentari, non ho avuto una continuità dopo uno stage di 6 mesi. Così, sempre per sentito dire, mi sono imbarcamenato in quella che è un'avventura da barista, sempre sotto suggerimento di un amico. E infine adesso sto facendo la pratica professionale tramite uno studio. Qui a Genova. Allora, diciamo che è un percorso che magari lei dice avrei voluto fare subito il geometra, no Andrea? Però ci sta anche che a 22 anni ci si possa rendere necessari, esatto, no? Percorrere anche altre strade. È successo anche a me, Nico, io non ho fatto subito la giornalista. Quanta acqua sotto i ponti, detto questo. Però lei, ecco, proprio, anzi Andrea, ti do del tu perché sei giovanissimo. Qual è proprio l'aspetto che contesti di questa tua ricerca? Che cosa ritieni che sia stato proprio il momento particolarmente critico, cioè il fatto che subito la tua vocazione non potesse essere messa alla prova, perché per quale motivo, insomma, qual è? Quello che io contesto è che oggigiorno ci sono molti ragazzi, io parlo per quello che riguarda appunto la mia professione, per i ragazzi che escono da una formazione da geometri. Ci sono tante richieste dei ragazzi per gli studi, rivolte verso gli studi per poter affrontare questo tipo di pratica. È anche vero però che spesso e volentieri i risultati finali non sono esaudienti, nel senso molto spesso i professionisti hanno difficoltà a seguirci perché giustamente loro intraprendono quella che è una vera e propria carriera lavorativa. E di conseguenza succede che il risultato finale è una cattiva preparazione e di conseguenza i ragazzi rimangono disinformati o poco certo, che era quello che Rasizza diceva poco fa. Andrea, grazie, in bocca al lupo per grazie, tutto. Intanto complimenti da molti ascoltatori che ci hanno scritto al 349-238-6666. Cosa scrivono? Ben disposti naturalmente nei confronti di Andrea, che ha dimostrato di fronte alle difficoltà di non arrendersi, ma di trovare delle strade alternative per aiutare la famiglia, per fare esperienze, per poi arrivare a fare una pratica nello studio da geometra. Dottor Andrea, in bocca al lupo. Esatto, l'esperienza di Andrea immagino non la sorprenderà, perché io non credo che su 100 geometri che vi scrivono per essere collocati, voi li collocati tutti in studi di geometri, no? E tutte le professionalità che naturalmente vi interpellano per essere in qualche maniera posizionate nel mercato del lavoro, non tutte riuscite a posizionarle esattamente nel ruolo che vorrebbero. Qualche compromesso in una fase come questa va fatto, forse compito di un'agenzia anche come la vostra, di una società come la vostra, è quella di trasmettere un messaggio di questo tipo. È anche vero che il geometra nel settore edilizio in questo momento non ha grande fortuna, dottor Rasizza, tutta una serie di fattori che hanno reso la vita di Andrea particolarmente difficile in questo percorso di ricerca del suo posto di lavoro. Come lo possiamo commentare? Ma lo commentiamo con la frase che ha detto lui: mi sono attrezzato, me lo sono segnato mentre lui lo raccontava. Ecco, questo spirito di adattamento, questa voglia di non arrendersi è l'elemento fondamentale e importante in questo momento. Quello che io dico sempre quando ho la possibilità di incontrare qualcuno che sta cercando lavoro in questo momento, un po' per il mio ruolo, un po' perché facciamo questo da tanti anni, mi capita spesso, è quello di dire: rientra immediatamente, il più velocemente possibile, nel mondo del lavoro. Penserai poi alla fase 2, cioè a trovare il lavoro che più si avvicina alle tue aspettative, più si avvicina al tuo percorso di studi, ma in questo momento la cosa più importante è che un imprenditore, un'azienda, qualcuno ti possa valutare concretamente e in maniera diciamo pratica sul campo. Andrea adesso forse farà il barista, benissimo, dovrà diventare il numero uno dei caffè nel suo bar, cioè deve essere il migliore a fare il caffè, solo i migliori riescono ad andare avanti, certo. Solo coloro che per esempio si mostrano flessibili, solo coloro che si mostrano con spirito di adattamento, cioè non persone che ancora io ne incontro che mi dicono dov'è il lavoro, a 50 km di distanza, ah no, 50 km mi sembrano troppi, ecco questa mentalità che deve un pochino cambiare. Cuore e denari. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta, al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina, ma ahimè, assai più bella di te. Deborah, giovani o meno giovani, sì. È inutile cercare di rendersela amica, lo specchio non mente, sa essere anche crudele, perché non sempre il confronto con la propria immagine è un momento positivo, diciamocela tutta, perché spesso saltano agli occhi piccoli difetti, imperfezioni, brufoletti, rughe, rughette, macchie, macchiette, borse, occhiaie, per non parlare di quella fronte che chissà come mai diventa sempre più spaziosa e dei capelli che proprio non stanno, sottili, ribelli, fragili. Allora, voi che rapporto avete con il vostro specchio? Vi fidate di lui, dell'immagine che vi rimanda? Lo consultate più volte durante la giornata e quindi anche fuori casa? O vi limitate a incontrarlo giusto al mattino prima di uscire o la sera prima di andare a letto? E soprattutto, qual è il segno che controllate con maggior attenzione? Quello che vi infastidisce di più e che vorreste cancellare? Chiamateci, perché oggi nella seconda parte di Cuore Denari vogliamo fare una sorta di sondaggio. Diteci quante volte vi specchiate, dove lo fate e che cosa guardiate. Noi vi seguiamo e portiamo con noi naturalmente un'esperta, una dermatologa, la dottoressa Elisabetta Sorbellini, che ci aiuterà a capire se le nostre imperfezioni, piccoli e grandi cambiamenti che stiamo notando, sono segno degli anni, di uno stile di vita non corretto, di eventuali carenze o dello stress, e naturalmente ci darà consigli per affrontare il problema. Non vi diamo garanzie per ritornare giovani, ma per mantenervi in salute, piacevoli e belli. L'importanza di trovare un lavoro che ci piace, ma anche un lavoro per cui c'è mercato, c'è richiesta, ci sono concrete possibilità. Ne stiamo parlando oggi a Cuore e Denari, con noi Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Job Metis e anche presidente di Assosom, l'associazione di categoria delle agenzie per il lavoro, molto attive in questi anni di difficoltà, perché l'incrocio fra domanda e offerta nel mercato appunto del lavoro è stato particolarmente difficile. Abbiamo molte testimonianze, abbiamo sentito l'esperienza di Andrea, molto attivo, e non è proprio Antonella da Roma il caso di Andrea, uno dei casi di cui vuole parlare lei, perché ha sentito la testimonianza di questo ragazzo di prima, giusto? Antonella, benvenuta. Sì, l'ho sentita, sì. Buongiorno, complimenti per le vostre voci splendide. Grazie, allora, Antonella, anche la sua. Condivido assolutamente quello che ha detto il ragazzo prima. Secondo me due problemi, io sono anziana e quindi parlo come nonna e come madre. Manca, secondo me, due cose: la scuola assolutamente staccata dalla realtà, che non prepara i ragazzi a una vita, alla realtà poi della vita. Uno. Due, questa mancanza di voglia nei ragazzi di affrontare anche dei lavori più semplici. Credo che nel Nord Europa, mentre si studi, mentre si fa l'università, intanto si lavora. Da noi manca questa, forse, o la fame manca. O Antonella, però quello che dico sempre io, adesso è un tema che appassiona molto me, Nicoletta, ma sono figli nostri questi qua. Allora, chi ha trasmesso questi messaggi a questi ragazzi? Chi li ha resi? Chi li ha scarsamente motivati anche a rimettersi nel mercato del lavoro, cominciando da una situazione molto bassa? Io lavoravo, quando andavo a scuola, facevo le scuole superiori, già andavo al ristorante, facevo mille cose, e perché l'esperienza di casa mia era quella di dire datti da fare. Lei non trova che è un nostro fallimento questo? Nostro fallimento. Ecco. Io non sono, però io vedo per invece niente. Molti ragazzi che si danno da fare e nonostante il periodo così duro ce la mettono tutta, non si scoraggiano. Rispetto a noi hanno un clima non li invita ad essere ottimisti. Io devo dire che ho delle figlie le tue sono delle macchine da guerra. Non sono delle macchine da guerra. Io vedo tanti ragazzi che si danno da fare con lavoretti, tanti ragazzi che rimimano rovina un po' la storia di Andrea, che nell'attesa di fare il lavoro per cui hanno studiato cercano delle di andare vie al bar, traverse. Esatto. Rosario, Rasizza, i ragazzi che incontrate voi sono naturalmente magari quelli particolarmente proattivi che vengono in agenzia e cercano di capire anche attraverso i vostri suggerimenti come presentarsi col miglior biglietto da visita nel mercato del lavoro. Qual è la sua esperienza in questo senso? Le è capitato anche di avere dei colloqui con degli svogliati, come li chiama Antonella? Beh, generalizzare in questi casi sarebbe troppo, facile. Esatto. Io credo che sì, in effetti i giovani forse un pochino di scoraggiamento lo hanno avuto, lo stanno vivendo, però sto notando una reazione, soprattutto dalle persone che entrano in filiale, che ci dicono pur di restare a casa sono disposto a fare qualunque cosa perché ho delle potenzialità, sono sicuro o sicura di potercela fare, mettimi alla prova. Certo è, come diceva prima la signora che ha telefonato, in effetti un pochino noi genitori dobbiamo cercare di lasciare questi ragazzi un pochino anche da soli nel risolversi i propri problemi, le proprie ansie, perché la vita poi sarà così, no? Se andiamo a guardare un pochino quello che è successo in questo periodo, credo che la crisi ha toccato tutti, ma credo che non abbia toccato la paghetta dei nostri ragazzi, no? Cioè la paghetta dei nostri ragazzi non ha avuto crisi, ecco. In questo senso credo che un pizzico di incentivo in più per dirgli forza, buttatevi al lavoro, provateci e andate tutto il giorno e tutti i giorni a cercare lavoro, questo dovremmo sicuramente poi farlo, non ci generalizzare non mi sembra. Esatto, non ci dimentichiamo che magari qualche volta un giovane si deve mettere a cercare il lavoro vivendo una situazione familiare difficile dove magari c'è il genitore che lo ha perso, per cui c'è anche una doppia emergenza casalinga che frustra un po' di più tutto il nucleo familiare. Sì. Certo che trovare una motivazione in queste condizioni è molto difficile. Ci scrive Carmen: mio figlio studia in Francia e nel percorso universitario non solo c'è uno stage ma anche addirittura un esame di inserzione professionale. Ecco, hai visto, tante esperienze europee che noi ammiriamo ma che non riusciamo a trasferire sul nostro territorio. Alessandra da Milano aspettava da un po', benvenuta. Sì, buongiorno. Io purtroppo mi inserisco con un'esperienza un po' difficile, però ve la devo proporre, soprattutto vorrei chiedere un consiglio all'esperto. Niente, io sono la mamma di un ragazzo che ha 16 anni, per cui purtroppo non ha avuto voglia di studiare, dopo diversi percorsi scolastici difficili e abbastanza travagliati, ha lasciato la scuola, ha completato l'obbligo per così dire scolastico, ma non ha raggiunto nessun tipo di diploma né qualifica. Allora è più di un anno che chiaramente è a casa a far nulla. Ci siamo iscritti al portale, si è iscritto al portale Garanzia Giovani, va in giro a cercare lavoro ma chiaramente non ha la maggiore età, non ha la patente. Ecco, io mi chiedo cosa può fare un ragazzo del genere se non può entrare in un vortice forse anche un po' di depressione, perché chiaramente l'unica cosa che fa questo ragazzo è dei piccoli lavori a casa, perché lui vuole lavorare, quindi non so, piccoli lavoretti, però mi chiedo, innanzitutto lui parte molto svantaggiato perché non ha nessuna qualifica e soprattutto anche volendosi formare non abbiamo trovato nulla se non per maggiorenni, anche a livello di formazione. Esatto, infatti era quello a cui pensavo io, comunque qualche percorso formativo poi in una regione come la Lombardia che magari ha un'offerta anche formativa un po' più ricca rispetto a quella che potrebbe esserci in altre regioni. Rasit, magari è una nicchia, però immagino che anche questi casi si presentino nei vostri uffici. Come rispondete? Perché l'abbandono scolastico esiste. Esatto, sì. Rasizza. Ma credo che il consiglio immediato che mi viene da suggerire è quello di dire alla signora che deve trovare con suo figlio la modalità di capire qual è la sua passione. Cioè, io non ci credo che suo figlio non ha una passione per i motori, una passione per la parte elettrica, una passione, cioè dobbiamo capire qual è la passione e attraverso la motivazione di questa passione farlo partecipare dei corsi di formazione che possono non tanto dargli un diploma ma una qualifica, perché oggi un ottimo elettricista, un ottimo idraulico, un ottimo tornitore in certi casi guadagna di più di un neolaureato in ingegneria, quindi farlo specializzare nella sua passione e non posso credere che questo ragazzo non ne abbia. Deve sbocciare probabilmente un po' meglio, forse anche attivarsi presso gli uffici della Confartigianato, della CNA, magari vedere anche se appunto le organizzazioni sul territorio del mondo dell'artigianato hanno delle possibilità in questo senso. Claudio da Pistoia, un figlio che è stato, tra virgolette, dico io, un po' più fortunato. Claudio, me lo dico solamente non perché suo figlio debba essere ritenuto tale, ma perché insomma in un periodo come questo impiegarsi subito dopo aver conseguito il diploma non è banale. Claudio, benvenuto. Buongiorno e buon anno. Anche a lei. Dunque, noi ci siamo già conosciuti quando il Peter Fly, perché mio figlio era quello che aveva avuto contatto il diabete. E vi racconto un po' la storia di mio figlio. Disse a battuta a lui che era meglio diabetico che Juventino, perché noi siamo viola. Dunque, io a parte battute, dunque lui ha avuto la fortuna anche, perché è stata anche grande fortuna, cioè non solo quella, ma anche la componente fortuna conta, cioè secondo me è un mix il tutto. Il fatto è questo, che quelli prima di lui che avevano il centro, lui è stato diplomato con 92, hanno gentilmente rifiutato di fare il lavoro perché hanno proseguito il percorso universitario. Al che è stato chiamato lui, questo l'altro per dopo. Poi hanno fatto la scelta da solo, ovviamente, come hanno scelto la scuola, e ha preso questo. Ora lavora lì, ha 3 anni di contratto come apprendista, faccio contratti nuovi. Quindi, contratto d'apprendista che è stato tanto vituperato. Claudio ha un figlio che dopo un mese dal diploma è stato immediatamente chiamato da un'azienda, è un perito chimico, quindi una professionalità molto specifica. E fa il chimico. E infatti fa quello che gli piace. Ha detto che così mi ha fatto capire che riconfermeranno il tutto e passerà a un contratto normale, perché senti come lo chiamano, l'indeterminato, Nicoletta, il contratto normale, la forma prevalente lo chiamava appunto la Fornero e forse anche Poletti. Claudio, purtroppo devo salutarla, però abbiamo avuto il piacere di avere una storia positiva prima di concludere questa parte, però 30 secondi, Nicoletta, magari a Rosario Rasizza, per darci 2 suggerimenti e un tema che avrebbe bisogno di un intero palinsesto, però intanto qualche piccola base l'abbiamo messa oggi, no? Cerchiamo di essere un po' positivi, diamoci da fare, questo chiaramente il messaggio universale. Un po' più concreti invece, Rasizza, qual è il messaggio che arriva da una società come la sua per i ragazzi che ci stanno ascoltando? Un po' più concreto, cercare lavoro è un lavoro, quindi tutte le mattine munirsi di tanta pazienza, di determinazione, uscire di casa con il proprio CV e non tornare a casa se non dopo aver fatto almeno tutte le agenzie per il lavoro della propria città. Siamo agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro, abbiamo tutti i giorni contatti con le aziende, quello che non è oggi può essere domani. Certo. Per cui immediatamente non stare a casa, perché a casa nessuno ci verrà mai a bustare per trovare un lavoro. E alle istituzioni ricordarsi che il lavoro non è sicuramente un bene di lusso e cerchiamo nel futuro di non tassarlo come un bene di lusso. Ah, ecco, quindi anche un messaggio, come dire, di carattere diverso ed istituzionale. Grazie a Rosario Rasizza, volevi aggiungere grazie qualcosa, Nicoletta? Sì, volevo dire a Ulisse, di cui siamo le conduttrici preferite. Certo, che buon gustaio. È logico, che parleremo anche dei nuovi posti di lavoro in previsione di Expo 2015. Ah, ottimo, e certo. Lei ci segua, Ulisse, ci segua perché, non perda la fiducia, perché ci scriva, siamo qua. E allora, noi ne parleremo. Promettiamo 2 temi, over 40, over 50, le professionalità legate ad Expo, ma qua insomma le parentesi che potremmo aprire sono molteplici. Io intanto me ne vado, ti lascio il microfono, ti lascio da sola i prossimi 45 minuti. Sì, d'altra parte tu farei la brava? Non hai bisogno di guardarti allo specchio, non hai bisogno insomma di mantenerti giovani, perché giovane lo sei, non vedo nessun segno, i capelli perfetti. La mia rugona qua d'espressione, cosa lo chiederemo alla nostra esperta, la dottoressa Sorbellini, che ci raggiungerà tra poco. Cuore e denari. Come stai? Ti distingui dal mondo comune. Eh sì, come stai? Ti vedo un po' tirata, sei dimagrita, hai cambiato colore dei capelli forse. Questi sono tanti modi crudelmente gentili con cui colleghi perfidine, amiche, amiciducce ci fanno notare che qualcosa è cambiato, meglio, qualcosa ci ha segnato. Capita in alcuni momenti di non essere in piena forma, di non avere, come dicevano le nostre nonne, una bella cera. A voi come va? Che cosa vi dicono i vostri amici e soprattutto che cosa vi dice il vostro specchio? Il giudizio è unanime o ci sono delle differenze? 800 24 00 24, in studio è arrivata la dottoressa Elisabetta Sorbellini, dermatologa, che ci accompagnerà in questa seconda parte di Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, dottoressa, oggi prendendo in prestito il suo occhio clinico e la sua esperienza, proviamo a guardarci con altri occhi e a fare pace con lo specchio. Allora, occorrente una faccia, uno specchio, e per chi non l'avesse sotto mano un po' di memoria visiva, e un numero verde 800 24 00 24. Dottoressa Sorbellini, dimmi quanti anni hai e ti dirò che cosa guarderai quando ti specchierai, perché ogni età ha i suoi punti deboli e i suoi punti di forza anche a livello cutaneo. Quando si è giovani si controllano i brufolini, la lucidità, la famosa zona T, pori dilatati, ma appena si cresce l'occhio cade su rughe, rughette, cedimenti, macchioline. Sì, in effetti con l'adolescenza iniziano i primi inestetismi, diciamo, sì. Brufoli, brufoletti dovuti proprio all'inizio, alla stimolazione ormonale vera e propria delle ghiandole sebacee. Le rughe invece compaiono un po' più avanti nell'età, diciamo dai 25, 28, 30 anni cominciano a vedersi. Inizialmente non sono stabili, sono rughe mimiche dovute proprio alla mimica del viso, poi via via con gli anni diventano sempre più stabili, mm-hmm. e visibili anche a riposo. L'acne, come dicevo prima, è una tipica dei giovani, dei giovani, non per tutti, ma è quasi una garanzia per tutti i giovani, sì, avere confrontarsi con qualche brufolino. Il problema è che in età non sospetti, momenti che non sono più quelli proprio dell'adolescenza, ecco che a fianco alle prime rughe compaiono, ritornano i brufoli, insomma la danno alla beffa, dottoressa. Sì, possono ritornare soprattutto sempre prevalentemente nelle donne dai 30 anni, 30-35 anni, intorno alla bocca, sul mento, cioè in zone diverse dall'età più giovanile e adolescenziale. Infatti, dottoressa, restando ai brufoli, poi parleremo di tutto quello che è, no, compare sul nostro viso, ma parleremo anche di capelli. Ma fermandoci un attimo sui brufoli, brufolini, la loro localizzazione, secondo la lettura della medicina cinese, può dare informazioni riguardo alle cause. Esiste infatti una sorta di mappa. Che cosa ci racconta? Ma appunto, quando i brufoli si localizzano prevalentemente e sono accompagnati anche da una seborrea, cioè la pelle lucida, da punti neri, quindi da un'attività importante della ghiandola sebacea, si localizzano più che altro sulla fronte, sulla zona centrale del viso, il naso, il mento, le guance, mentre nell'età più adulta nella donna tendono a localizzarsi intorno alla bocca. Le cause sono diverse, cioè possono essere cause ormonali oppure delle piccole cisti ovariche che possono dare questo genere di problematiche. Sappiamo che la pelle è una questione di DNA, ma anche di stile di vita, come a dire che non sono solo gli anni a segnarci. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare in questa seconda parte di Cuore Denari. Noi possiamo mantenere la nostra pelle e i nostri capelli giovani, lei non ci darà garanzie ma consigli. D'altronde sappiamo che lo stile di vita ci mette la sua, basta una notte insonne per trovarci al mattino davanti ad un'altra faccia, ma oltre alla mancanza di riposo, tra l'altro abbiamo dedicato proprio una puntata al sonno, quali sono gli altri nemici della nostra pelle? L'alimentazione, lo stress, il fumo, ci sono dei dati che mettono proprio in relazione abitudini di vita con l'invecchiamento, no? Sì, sicuramente lo stile di vita è importantissimo per la salute della pelle e per la comparsa anche, diciamo, precoce di certi tipi di inestetismi, quali per esempio le rughe. Il fumo senz'altro ha un ruolo importantissimo, non solo a livello generale ma a livello cutaneo. Ingrigisce la pelle, rende comunque le rughe più visibili intorno agli occhi e soprattutto intorno alla bocca, e proprio per una questione anche di postura del labbro. Chi fuma molto ha delle rughe, sì, si chiama codice a barre, ecco, tipicamente. E poi ci sono gli squilibri ormonali. Poi ci sono senz'altro gli squilibri ormonali e squilibri legati soprattutto all'asse ipotalamo ipofisario, quindi la tiroide, il funzionamento della tiroide. Il sonno è importante perché nel sonno noi produciamo la melatonina a livello proprio di una parte centrale del nostro cervello durante la notte, che è fondamentale nel regolare per esempio anche la tiroide. Andiamo a Sabina, che ci chiama. È caduta Sabina dalla provincia di Latina, faceva anche rima, che voleva raccontarci dei cambiamenti che ha notato osservandosi davanti allo specchio. Possono improvvisamente andiamo davanti allo specchio e notiamo la ruga che non c'era, guardiamo in alto e vediamo che i capelli non a volte non basta lo specchio, no? Bastano il piano della doccia, il pettine, vediamo che i capelli cadono, la fronte diventa più spaziosa, cambiano anche proprio i capelli come volume. No? Come struttura. Come volume. Se noi afferriamo, se una donna col capelli medio lunghi può afferrarsi i capelli come a fare una coda, si può notare proprio immediatamente che la coda perde un pochino, no, di volume. Questi sono tutti i segni di cui vogliamo parlare oggi insieme alla dottoressa per capire un pochino la causa, ma soprattutto anche avere delle indicazioni utili da lei, anche perché, come abbiamo detto, non è tutto invecchiamento quello che si legge sulla cute. Ci aiuti a fare un'analisi allora differenziale, dottoressa? Partiamo dalle rughe. Ci sono le rughe dell'espressione, le rughe dei fumatori, ma quali altri tipi di rughe possiamo notare nel nostro viso e come possiamo fare un'autodiagnosi? Beh, per esempio ci sono le rughe più date da un fotoinvecchiamento, cioè dall'invecchiamento provocato dai raggi ultravioletti. Chi prende tanto e troppo sole o chi fa tante lampade ha un invecchiamento precoce della pelle, con queste rughe che diventano già visibili anche a livello statico, sì, in giovane età, già sui 30 anni. La pelle tra l'altro si ingiallisce, si spessisce, per cui diventa anche un pochino più dura, più spessa, mentre nel classico e tipico invecchiamento legato al passare degli anni io vedo anche un po' un cedimento, come un cedimento della pelle, delle rughe a livello dei lati della bocca, della bocca o del contorno del viso, va giù, ma ci sono delle indicazioni, no? Un po' c'è la cura dei vampiri di cui vi parleremo, certo, oggi, è stata battezzata così, e adesso andiamo a sentire il nostro GR, ma torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia. Parleremo anche di capelli, intanto andate a specchiarvi, guardate bene l'attaccatura e la riga. 800 24 00 24. A proposito di specchio, secondo un sondaggio del Daily Telegraph, le donne di oggi controllano il proprio aspetto mediamente 8 volte al giorno, quindi specchio di casa, vetrine, specchietto retrovisore, display del telefonino. Degli uomini non è dato sapere, allora proviamo a colmare questo vuoto oggi. Chiamateci e diteci se siete uomini, quante volte vi specchiate o quante volte si specchia il vostro compagno, così confrontiamo i dati. E a proposito di specchio, c'è una campagna che vi voglio segnalare perché ha come obiettivo quello di fare pace con l'immagine riflessa dal nostro specchio. Lo slogan Love the Mirror è semplice, diretto, arriva al cuore e soprattutto invita ad impegnarsi ad amarsi di più, ad accettare il proprio corpo, la propria immagine. Nella pagina di Cuore Denari vi metteremo il link. Intanto, dottoressa Sorbellini, torniamo a noi, al nostro specchio, a quello di Sabina che ci chiama da Latina. 800 24 00 24, mi raccomando, utilizzate oggi questo numero verde come state facendo per dare una risposta a tutti i vostri dubbi. Fanno bene le capsule che aiutano a produrre l'acido ialuronico? Ne parleremo tra poco, ma prima Sabina, che succede? Che cosa ha visto davanti allo specchio? Ecco, guardi, io ho proprio un pessimo rapporto con lo specchio. Questa campagna forse si adatta molto a me perché ho un pessimo rapporto proprio con la mia pelle. Io ho 36 anni e devo dire che da ragazza, giovane, adolescente non ho mai sofferto di acne. Ho cominciato a svilupparla intorno ai 20-22 anni, un'acne definita tardiva se non sbaglio, e ho fatto tutti gli accertamenti, avevo questi grossi brufoli sotto pelle, quasi delle piccole cisti che mi modificavano sfumavano proprio i contorni del mento, insomma l'ho vissuta molto male. Molto male, perché lascia dei segni profondi non solo sulla pelle, ma proprio per chi ha sofferto di acne lo sa, rimane quasi una ferita, ecco, perché disagio. Disagio. Ho delle macchioline ancora rosse di tutte queste, di queste cicatrici, ho fatto tutti gli accertamenti, non ho problemi. Sabina, però sa che ci sono delle novità nel trattamento dell'acne, possiamo dire tardiva. Dottoressa Sorbellini, oggi lei ci deve dire tutte le novità, dalla testa ai piedi, ci fermiamo, capelli e viso. Diciamo che nelle patologie infiammatorie come quelle del, come l'acne, anche se tardiva, ci sono delle origini un pochino diverse, cioè quella più tardiva è più di origine ormonale in genere, però può essere anche uno squilibrio per esempio della tiroide, una carenza di determinate sostanze come la vitamina D. Detto questo, esistono comunque tutta una serie di trattamenti che si possono fare dal dermatologo o anche, una volta valutata e impostata una terapia, anche comodamente al proprio domicilio, con con i fattori di crescita dal dermatologo, piastrinici che vengono o iniettati o anche applicati sulla pelle e fatti passare. La famosa cura del vampiro, no? Sì, la famosa cura del vampiro, come è stata definita. In che cosa consiste praticamente? Consiste nell'utilizzo dei fattori di crescita contenuti all'interno delle piastrine, quindi all'interno del proprio sangue che viene prelevato, e poi si utilizza soltanto il plasma per curare varie patologie infiammatorie, dai capelli alla pelle, per ridurre anche la componente infiammatoria e quindi anche l'acne e i segni dell'acne. Per cui adesso ci sono presentate delle nuove terapie antibiotiche che hanno meno effetti collaterali e soprattutto sono più mirate per il problema? Sono più mirate, per esempio certe terapie con certi nuovi antibiotici, tetracicline, che non sono fotosensibilizzanti, che funzionano molto bene anche nella rosacea, che è più da forma tardiva, non è l'acne giovanile tradizionale, viene con una componente anche infiammatoria a carico dei capillari. Certo. E su questo si... 800 24 00 24. Qual è il problema, qual è l'imperfezione che vi mette a disagio quando vi guardate davanti allo specchio, che controllate con più frequenza, e qual è soprattutto il tema su cui avete magari più dubbi? Adriana da Treviso mi scrive: ho bisogno di un consiglio dalla gentile dottoressa, sarei tentata a prendere delle capsule che favoriscono la produzione di acido ialuronico e dopo 4 mesi un grado in meno delle rughe, sarà vero? Allora, questa è una domanda, perché l'offerta è varia, è generosa, ma noi diciamo, ma farà il caso mio. Dottoressa, questi integratori a chi sono indicati, che cosa c'è da aspettarsi, quale distinguo dobbiamo fare? Gli integratori sono fondamentali quando si vede proprio un impoverimento della pelle, il derma, che è il sostegno proprio della pelle, si impoverisce, si assottiglia e perde acqua. L'acido ialuronico è uno dei costituenti fondamentali del derma e della matrice in cui sono situati i fibroblasti che producono l'acido ialuronico. I fibroblasti con gli anni, con l'età, cominciano a produrre sempre meno acido ialuronico, per cui anche in relazione ovviamente alla situazione ormonale, quindi dopo la menopausa questi funzionano meno, producono meno acido ialuronico. Si può iniziare anche prima comunque a prendere degli integratori più specifici per andare a stimolare il fibroblasta con per esempio sostanze come l'esperidina, che è contenuta però anche in alcuni alimenti, per esempio nella buccia d'arancia dell'arancia dolce, oppure con sostanze che abbiano un'azione antiossidante specifica come l'acido ellagico, che è un prodotto della bava di lumaca, per cui tutte sostanze che sia per uso topico che introdotte per bocca, ecco, possono aumentare. Mi raccomando, però, noi che cosa succede? Che ci sono tante persone che fanno ricorso agli integratori e poi hanno delle diete squilibrate. Ad esempio, le diete molto proteiche poi si pagano a livello così, certo, di tenuta della pelle, il tessuto si svuota, si segna di più. Certo. Perché, dottoressa? Perché allora gli aminoacidi sono fondamentali per la nostra vita, perché la cheratina, che è il maggiore costituente della pelle, è composta da aminoacidi, però non deve essere soltanto un apporto proteico quello della dieta, cioè deve essere una dieta ben equilibrata con anche una componente di carboidrati. E infatti le carenze nutrizionali si riflettono anche sulla pelle e sui capelli. Ne abbiamo parlato tante volte anche sulla salute delle unghie. Certo. Allora, naturalmente molte ascoltatrici all'800 24 00 24. Andiamo subito a Elisabetta, che ci chiama da Cagliari, poi Caterina e Angela. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione, bellissima. Grazie, molto gentile. Sì. Mi dica. Allora, io ho notato, premesso che mi faccio il colore io da sola nei capelli, sì, ecco, non dico il prodotto, comunque un buon prodotto. Mm. Ecco, e facendomi appunto con lo specchio, guardandomi, facendo le righe per mettere le righe col pettine per distribuirlo bene, per fare, sì, la base, mi accorgo che ho delle zone di capelli che mancano, ecco. Tipo alopecia, non è gravissima, ma comunque me ne accorgo. Ecco, dopo che faccio tutta questa roba qui, mi faccio uno shampoo, mi metto il balsamo, e il balsamo che trovo sempre nel prodotto, il balsamo vedo che mi fa perdere più capelli. Quando sarà il balsamo? Allora, grazie Elisabetta per questa testimonianza, che permette alla dottoressa Sorbellini di rispondere a due domande. La prima, il discorso tinture è uno dei fattori, dei nemici, molti ascoltatori me lo stanno chiedendo, può essere nemico della salute dei nostri capelli, può indebolirli, può aumentare il diradamento, può renderli fragili o andiamo tranquilli, anche se le facciamo a casa. No, con le tinture attualmente in uso, che siano per uso casalingo o fatte dal parrucchiere, non si corrono rischi, a meno che non ci sia un'appurata allergia a certi componenti delle tinture, la moniaca, certo, ecco. E si sente, si avverte subito, si avverte, pizzicorini, e si vede, rossori, cioè, eccetera. Ci sono proprio delle chiazze di eczema che si manifestano ogni volta che uno fa la tintura, è un bruciore intenso. Ecco, quando diciamo perdo i capelli, allora bisogna specificare se siamo donne o se siamo uomini, no? La dottoressa Sorbellini, perché li perdiamo in modo differente e il diradamento dice qualche cosa sulle cause a seconda di dove si manifesta, come si manifesta, dottoressa. Certo, se parliamo di diradamento inteso come forma androgenetica, quindi legata un po' ad una situazione ormonale che nella donna dopo la menopausa inevitabilmente si verifica, oppure negli uomini con una predisposizione proprio familiare, c'è una sorta di diradamento dovuto all'assottigliamento dei capelli. Sì. Perdono volume e tipicamente nella zona centrale della testa, dalla fronte indietro. Nella donna invece più giovane, con una situazione diciamo normale dal punto di vista fisico, di benessere, ci possono essere degli episodi di importante caduta. In quel caso io vedo proprio cadere i capelli, li trovo in giro, li trovo nel piatto, sì, della doccia, nella spazzola. E quello che è importante andare a vedere è il diametro di questi capelli, cioè se sono capelli comunque grossi, ci possono essere delle situazioni carenziali o degli squilibri ormonali, vedi la tiroide come ho citato prima. Se invece i capelli che si perdono via via diventano sempre più sottili, allora bisogna effettivamente pensare a una forma androgenetica. Quali sono nel versante capelli le novità più interessanti che lei si sente di presentare e di suggerire? Le nuove terapie, le più interessanti ma anche le più efficaci dal punto di vista dei risultati che si possono ottenere, sono l'utilizzo appunto dei fattori di crescita, che possono essere naturali, come dicevo prima, cioè derivati dal nostro corpo, dalle nostre piastrine, e quelli sono efficacissimi, possono essere utilizzati per via iniettiva o anche non, sì, oppure fattori di crescita anche sintetici, cioè da biosintesi, biosintetici che vengono anche aggiunti. Non ho volte. Capito però se questi fattori di crescita fanno ricrescere il capello, ne fanno crescere nuovi, se lo rendono invece più forte, se gli aumentano il diametro e soprattutto a chi sono indicati e in che stadio del diradamento. Fanno un po' tutto questo, cioè aumentano il diametro, forniscono più energia alle cellule, più vigore ai capelli e quelli che sono molto sottili e non si vedono neanche più ad occhio nudo vengono di nuovo ristimolati perché vanno a stimolare anche le cellule staminali dove apparentemente non ci sono bulbi o capelli visibili, vanno a ristimolarli. Non abbiamo dato la risposta del balsamo, mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice, anche perché ci dice che perde tanti capelli dopo il balsamo. Ma è possibile che ci sia una relazione così diretta tra applicazione di un prodotto e perdita di capelli, un prodotto specifico poi no, tra l'altro per il cuoio capelluto e per i capelli? Che cosa potrebbe esserci dietro? Potrebbe esserci un balsamo che non è adatto per quel tipo di capello e li appesantisce e li rende meno voluminosi, quindi se sono già dei capelli sottili li rende ancora più visivamente diradati. Andiamo a Caterina da Bergamo, buongiorno Caterina, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato e grazie per questa trasmissione che è sempre molto utile, soprattutto per noi donne. Grazie. Allora, il mio tema è questo, so che con la menopausa, me lo dicono tutti e comincia a dirmelo anche lo specchio, io ho 47 anni, credo di essere, spero, in una fase di premenopausa, ma in ogni caso ormai vivo rassegnata ad andare incontro a questa situazione. So che ci sono conseguenze dirette sull'elasticità della pelle, la tonicità della pelle e quant'altro. E se sì, quali sono, al di là che bisognerebbe bere di più, cosa che io non faccio, quindi già mi accudo da sola. Caterina, si metta una bottiglia vicino e, non ce la e poi faccio. Ma come non ce la faccio? Io guardi che domani forse parlo vedere, proprio solo, di liquidi, l'aspetto. Solo a vedere la bottiglia mi passa la voglia di bere, mi viene l'ansia, quindi devo mettermene magari due piccoline se riesco. Tanti bicchierini. Bisogna abituarsi a portarsi la bottiglia. Allora, dottoressa Caterina e insieme a Caterina tutte le donne che sono nella sua età, no? In quell'età tra la menopausa e la premenopausa, tre consigli, tre miratissimi per preparare la pelle e i capelli, quindi mantenerli giovani. Ecco. Ci dia lei le garanzie, abbiamo parlato di garanzia giovani nella prima parte della trasmissione, allora, anche una dermatologa può darci delle garanzie. Come dicevo, innanzitutto la dieta, una dieta ben equilibrata con un apporto di vitamina D che necessariamente diminuisce soprattutto dopo la menopausa e in corrispondenza della menopausa. Per cui per esempio mangiare le noci, mangiare dei... Non di più però di 40 grammi al giorno, sì. Ieri sul Corriere c'era scritto 20, il dottor Gualerzi dice 40 perché sennò la linea, cioè i benefici poi certo, vanno in ciccia. Certo, però comunque una o due noci al giorno, frutta, verdura, soprattutto le banane che contengono... degli aminoacidi fondamentali come il triptofano, ma oltre alla dieta ci sono dei trattamenti, sì, che vanno, che ad esempio anche la tecarterapia, no? La tecarterapia per esempio spostata da ambito così riabilitativo per i traumi sportivi anche per i trattamenti, certo, no? Che restituiscono, certo, tono, bellezza, turgore, elasticità alla nostra pelle. Possiamo appunto andare a introdurre quelle sostanze nella pelle anche senza gli aghi, quelle sostanze che mancano, vedi, l'acido ialuronico, sostanze antiossidanti, in un mix, in un gel creato appositamente, applicato sulla pelle con questo sistema di veicolazione che non usa necessariamente gli aghi, che fa penetrare nella pelle e agire le sostanze utili anche a lungo termine. È una cura molto intensa che però può essere ripetuta in nel... quanto tempo? Anche dopo un mese. Anche dopo un mese costa parecchio. Se viene fatta in ambulatorio ha un costo medio, diciamo comunque accessibile, come se fosse una seduta di laser, sì, diciamo dai 500-600 euro. Caspita, però. Però può essere fatta una tantum, oppure può essere fatta anche a casa con più trattamenti ripetuti nell'arco di un breve tempo, anche 10 giorni di terapia. a giorni alterni, quindi certo, 5 applicazioni possono essere più che sufficienti. Allora, noi vogliamo chiudere questa trasmissione, questo, ritorneremo sicuramente sul tema, le amiche di Cuore Denari si stanno scatenando anche via messaggi, chiamateci, tra poco è finita la trasmissione, ma scriveteci e noi gireremo le mail alla dottoressa Sorbellini, perché ci sono delle volte che noi facciamo un autogol, insomma facciamo tanto per mantenerci giovani e poi cadiamo lì proprio su una buccia di banana. In linea con noi abbiamo Luigi Sutera, che è un nostro collaboratore del Daily Lab, oltre che essere un famoso curatore d'immagine. Luigi, ciao, benvenuto. Buongiorno. Luigi, ci sono, noi facciamo degli errori, allora sì, ti lascio lo spazio in un minuto e mezzo, purtroppo il tempo è tiranno, devi raccontarci brevemente che cosa non dobbiamo fare. Veloce e semplice. Allora, può accadere per una serie di luoghi comuni di sbagliare, di fare degli errori veramente basici che non dovete assolutamente fare. E entriamo nello specifico, parliamo di trucco. Allora, parliamo di fondotinta. Il fondotinta non è uno stucco che riempie le rughe, ma al contrario vi si insinua e le rende più evidenti. Quindi mi raccomando, leggere, una texture molto morbide e soprattutto siate molto parsimoniose nelle dosi. Se vogliamo continuare sempre parlando, sì, di trucco, che è il mio lavoro, utilizzate fardi in crema perché non asciugano la pelle, anzi, perché sono creme, la rendono più elastica anche visivamente. Sì. Un altro piccolo consiglio, invece che usare rossetti spessi dalle texture molto corpose, scegliete texture molto leggere e naturali e applicateli con l'impolpastrello, perché essendo caldo diluisce la texture e il prodotto aderisce perfettamente alle labbra, che risulteranno fresche e semplicemente vestite del colore della salute. Un altro errore, consentimi, molto, molto diffuso, molto frequente, è confondere due termini. Si dice, ed è vero, che nel tempo il trucco bisogna alleggerirlo, verissimo, però spesso confondete l'alleggerire con lo schiarire. Alleggerire fa riferimento alla quantità, quindi le quantità devono essere assolutamente sì minime, ma l'intensità deve essere molto scura, perché lo scuro rende ad esempio un occhio pesante leggero. Sembra strano, ma chi si veste di bianco per apparire magro? Invece solitamente più si va avanti negli anni, più pensate che un ombretto bianco per lato possa aggiungere e regalare luce all'occhio. Mamma mia. E questo è veramente un errore. Dovete andare assolutamente, dobbiamo assolutamente andare sul nostro Daily Lab a leggere i consigli di Luigi Sutera, curatore d'immagine, delle cose che ci ha detto. Quante ne avete sbagliate? Io devo dire almeno 4 su 5. Grazie a Luigi Sutera, torna grazie presto a voi. Trovarci alla prossima, un bacio. Dottoressa, lei deve rispondere alle nostre amiche, sì, che si stanno scatenando. Cuore Denari, volentieri, scrivete tutti i vostri dubbi. Grazie a Paolo Corleoni, regia la parte tecnica, Isotta Scenna, Marco Lombardo, con Deborah torniamo domani alle 11, vi aspettiamo, preparatevi.